Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Scioglievano la cocaina con particolari sostanze chimiche, poi vi impregnavano la lana utilizzata per filare i tappeti e così la droga entrava in Italia sotto forma di filati artigianali. La droga veniva importata dal Messico via Madrid utilizzando cani che venivano imbottiti di cocaina ricoperta da carta carbone per non essere intercettata ai controlli negli aeroporti. Una volta nel nostro paese gli animali venivano squartati per recuperare la sostanza stupefacente. 50 persone, per lo più italiane, sono state arrestate su richiesta della DDA di Milano. Altre 3 all'estero sarebbero già state individuate. L'operazione è stata denominata Pollicino perché durante le indagini un corriere dell'organizzazione, nel trasportare a bordo di una moto 6 kg di cocaina custodita in uno zaino, ne avrebbe perso gran parte lungo la strada, salvo poi recuperarla proprio seguendo le tracce. Mi viene chiesto questa mattina da un ascoltatore: per favore, oggi parla di UFO e paranormale, perché qualcuno aveva già sentito nel lancio che avrei parlato di cocaina. Perché torno a parlare di cocaina? Perché trovo sconcertante la normalizzazione rispetto al problema, rispetto al fenomeno, rispetto all'uso ormai diffuso, rispetto alle notizie che ogni giorno ci danno traccia e conferma di quanto noi siamo un paese di cocainomani. Siamo in testa alle classifiche europee del consumo di cocaina. Non si capisce perché in questo momento, questo sfortunato paese che sta attraversando un momento così tragico, tra i primati, pochi primati che ancora può conservare, ci sia quello del consumo della cocaina. Lo dico perché questa mattina, rispetto alle tante notizie, trovo molta più senso di apprensione, ma è giusto che sia così probabilmente, e di partecipazione emotiva per i poveri cani che vengono squartati più che per i chili e chili di cocaina che portano al loro interno, che a loro volta verranno diffusi per tanti figli di famiglia, per tanti padri di famiglia, per tante madri di famiglia, e continueranno a alimentare questo fenomeno di cui si parla ormai alla stracca. Se ne parla come se fosse un dato acquisito, che fosse totalmente normale, rientra fra gli usi, vabbè, è come le persone che si mettono le dita nel naso ai semafori, che vuoi farci? È un'abitudine nazionale, per la stessa ragione spippettano e fumano. Lo dico perché oggi c'è un'iniziativa che probabilmente passerà in secondo piano rispetto alla copertura dei media, rispetto al colloquio farsa in streaming fra Grillo e Bersani, che tutti seguiranno con grande apprensione. Oggi c'è un'iniziativa che in altri tempi avrebbe stato molta attenzione e molto interesse, perché qualcosa è totalmente nuovo. L'iniziativa si chiama Tira dritto, stop cocaina. In 15 città italiane ci saranno oggi i cosiddetti Tall Street contro lo spaccio di cocaina. Alcune persone andranno nei luoghi che tutti conoscono, che tutti sanno quali siano, che tutti ci vanno per comprare, vendere, spacciare, acquistare, per farsi la botta per la botta di vita. Andranno e parleranno, si contrapporranno con le parole, con la presenza, sono personaggi di spettacolo, personaggi di istituzioni, e andranno nei luoghi innominabili ma che tutti conoscono, in cui si spaccia cocaina. Questo Tira dritto, stop cocaina nasce da un'idea di Paolo Berizzi, che è un inviato di Repubblica, è autore del libro La Bamba, di cui abbiamo anche parlato in questa trasmissione, in collaborazione con Elsa Di Gati, che è una giornalista di Retre, una mia antica collega del giornale radio. È promossa al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio, con il sostegno della comunità Villa Maraini e della Croce Rossa Italiana. Fra i nomi che hanno aderito a questa iniziativa ci sono Carlo Verdone, Pier Francesco Favino, Piera degli Esposti, Raul Bova, Filippa Langerbach, Massimo Barra, Povia, Cledi, Paolo Belli, tutta una serie di personaggi dello spettacolo. Qualcuno si dirà: ma fra quanti che questi in realtà tirano e poi vanno lì? Non lo so, non mi interessa. L'importante è che accada qualcosa del genere. L'importante è che almeno io in questa mattina ne do notizia, e di questo voglio parlare. Prendo l'occasione per parlare della normalizzazione rispetto al problema della cocaina. Giovanni Serpelloni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Giovanni Serpelloni è capo Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio. Vorrei dare l'idea questa mattina che ancora qualcuno sta al suo posto e fa il suo lavoro. Cosa accade questa mattina? Lei cosa farà in particolare? Beh, guardi, noi abbiamo intanto appoggiato l'iniziativa perché è un'iniziativa sicuramente meritevole e ricalca tutte le strategie che noi stiamo portando avanti. Noi saremo là oggi pomeriggio con una presenza fisica mia e degli altri operatori, abbiamo invitato anche la parte istituzionale, quindi il questore, la rappresentanza del prefetto, la rappresentanza del sindaco e le forze dell'ordine che saranno con noi anche per testimoniare. Dove andrete? In particolare lei dove andrà? A Tor Bella Monaca c'è un particolare posto dove avvenga questo spaccio, che è la Pinetina, e quindi noi andremo direttamente nel luogo dello spaccio. Insomma, questo è quello che faremo, portando una testimonianza, ma poi è simbolica, poi chiaramente noi lavoriamo tutto l'anno e ormai da più anni nel creare condizioni, da una parte di prevenzione, questo ci tengo a dirlo, no, che renda consapevoli le persone, un po' come avete fatto voi all'inizio, che avete descritto come arriva la cocaina. Si è dimenticata una cosa, però, che quella cocaina spesso arriva nell'intestino di persone, i cosiddetti ovulatori, che poi, mi scusi la franchezza, certo, la defecano quando sono qui nel territorio italiano e poi la portano a questi sciagurati. Quando gli va bene, perché tante volte ci rimangono anche secchi loro stessi, perché non è mai così sicuro nemmeno questo trasporto. Devo dire che questo trasporto sta aumentando come modalità di trasporto, però ecco, le persone che usano cocaina devono sapere che usano cocaina che viene dall'intestino di altre persone. Sì, che passa per il culo di altre persone, diciamolo. Probabilmente sì. Non si pongono questo problema. Parlando francese, giusto? Ma guardi, non è che stiamo parlando di tè alle 5, stiamo parlando di qualcosa che giustamente viene assimilata nel gergo dei drogati anche con la sostanza che naturalmente esce dagli intestini. Ecco, dall'altra quindi parte di questo parliamo. Poi le forze dell'ordine che comunque fanno un ottimo lavoro, perché da un punto di vista è chiaramente difficilissimo intercettare queste cose, però devo dire che ultimamente e da più di qualche anno ormai c'è un buon contrasto. Ecco, il dato di fatto, io vorrei anche dare una buona notizia, però, che è questa qua: sono quattro anni che noi vediamo calo dei consumi di cocaina. Le andiamo a dosare nelle acque reflue, nelle acque delle fogne di 18 città italiane, e lì troviamo i metaboliti per andare a vedere quanto effettivamente cocaina si consuma. È una ricerca che facciamo col Mario Negri, l'Istituto Mario Negri. E la buona notizia è che per fortuna negli ultimi 3 o 4 anni c'è un trend alla riduzione, il che vuol dire che la maggior parte delle persone italiane, che per fortuna non sono drogate, non sono persone che assumono cocaina, la maggior parte, sviluppa una consapevolezza e sta sviluppando una consapevolezza che questa sostanza distrugge non solo il tuo cervello, ma anche la tua socialità, la tua credibilità, la tua performance lavorativa, oltre che relazionale, per esempio. La novità di questa cosa che accade stamattina, normalmente non è nel mio stile dare eco alle tante iniziative, questa però vale la pena, perché trovo da un certo punto di vista paradossale, da un altro punto di vista fondamentale, quello che sta accadendo oggi, che in realtà la mappatura dei centri di spaccio di cocaina, che sono in questa sorta di mappa limacciosa e liminare di cui nessuno parla, ma tutti sanno le forze dell'ordine, sanno le persone che ci abitano, sanno le persone che vanno lì a rifornirsi, quelle che vanno lì a trattare, venga attraversata consapevolmente, le persone vanno lì a parlare. Quindi si sa comunque dove si spaccia cocaina, è noto, e la tracciatura dei luoghi di spaccio è talmente nota che oggi ci andrete in tutta Italia, in 15 città italiane. Sì. Questo è quello che vogliamo fare, e questo rientra nel fatto che vogliamo sollevare la consapevolezza della popolazione anche locale, che non ci sono posti franchi dove poter fare delle illegalità e poter continuare a fare queste illegalità. Dobbiamo anche mandare un messaggio chiaro da questo punto di vista, e mandare anche un messaggio chiaro su chi consuma queste sostanze, perché forse, ma non deve sfuggire a nessuno, un euro speso nell'acquistare qualsiasi tipo di droga, non solo la cocaina, un euro che noi diamo alle mafie e alle organizzazioni criminali, quindi anche quei ragazzotti che magari superficialmente per fare la festa del fine settimana vanno a comprare la loro dose di cocaina o, ripeto, di altre droghe, devono essere consapevoli che stanno finanziando le mafie, le loro violenze e anche il terrorismo, perché poi questi soldi vanno a finire anche lì. Quindi le violenze che noi tanto deprechiamo quando le vediamo in televisione, magari sui giornali, vengono finanziati anche da quel singolo euro che la persona dà per comprare le sostanze. Allora, io adesso vorrei chiedere a chi ci ascolta di chiamare all'800240024. Stamattina vorrei testimonianze di normale uso di cocaina, di quanto nella cultura della normalità del quotidiano, delle azioni quotidiane, secondo voi, secondo la vostra testimonianza, la vostra esperienza, quello che sentite dire dalle persone che stanno attorno, sia qualcosa che ormai fa parte del costume. Perché dico questo? Perché adesso voglio sottoporre anche al dottor Giovanni Serpelloni una cosa che ho osservato io in rete che mi ha fatto molto riflettere. Io sono andato su un sito casualmente, l'indirizzo è www.marijuana.be, è il negozio di Matteo Filla, che è un signore che vende varie cose, però già il sito dà l'idea di cosa si venda. Devo dire, ma non lo dico con malizia, lo dico perché qualcuno ci rifletta, magari prenda delle posizioni in proposito, che in home page c'è scritto "Vote, fai votare Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo solo contro tutti". Lo dico perché qualcuno del Movimento 5 Stelle magari vada a osservare questo sito e pensi se è giusto che poi faccia loro pubblicità, si mostri loro promotore. In questo sito si vende di tutto, anche accessori folcloristici, abiti, cose apparentemente innocue, oggetti rasta, ma c'è una sezione di cui voglio parlare. La sezione si chiama articoli da sniffo. Gli articoli da sniffo sono tutta una serie di accessori molto carini, molto particolareggiati, di cui vi faccio ascoltare qualche spot pubblicitario, poi entriamo nel merito. Set per sniffare. Con coperchio in legno, questo piccolo box ti sarà utile in ogni viaggio, non importa quanto breve. In questa piccola scatola si ha tutto il necessario per un consumo nasale facile e sicuro. Per pochi euro avrai tubo, specchio, cucchiaio, una lama e uno snow seal per neve. Attualmente acquistare online a pochi soldi costa soltanto 17,90 euro, questa valigetta carina con uno specchio, con dentro tutti gli accessori, che chiaramente è destinata all'uso. Voi direte uso personale, ognuno fa quello che vuoi. C'è tutta una serie di altri accessori, c'è il set per sniffare a forma di pennarello, un pennarello in cui dentro è nascosta comunque la cocaina per sniffare magari in ufficio, ci sono vari oggetti in cui può essere nascosta la sostanza, tutta la serie di pippotti in vetro, in alluminio, in vetro con fiamma colorata, il pippotto bifido per la sniffata in due, addirittura per le persone spiritose il pippotto a forma di aspirapolvere, puoi sniffare cocaina con un piccolo aspirapolvere. Mini pipa monotiro. Probabilmente la pipa più piccola mai prodotta, da impugnare tra mignolo e indice sfruttando la cavità del palmo come camera di espansione. Date le dimensioni, nessuno pensa che sia una pipa, ma piuttosto un bocchino per sigarette. L'idea è che il consumo può avvenire normalmente con qualche piccola cautela per non farsi scoprire, ma andando ancora avanti è ancora più interessante l'aspetto di una sezione diversa di questo sito. Set per sniffare 007. Questo kit è travestito da pennarello, ma al suo interno contiene un vasetto di vetro e un pippotto per massima discrezione e per il trasporto di oggetti di valore. Contiene un vasetto di vetro e tubo per sniffare. È ideale per nascondere denaro e altri beni piccoli ma preziosi. Diventa più esplicito andando avanti, appunto, nella sezione degli oggetti misteriosi, una serie di attrezzature che chiaramente sono fatte per l'acquisto e il piccolo spaccio. Sto parlando di alcuni oggetti di uso comune dove chiaramente è simulata un bilancino per pesare appunto la sostanza o alcuni vani segreti in cui può essere nascosta la cocaina. Bilancia mouse. Una bilancia a forma di mouse con tara e funzione per calibrazione. È dotata di display azzurro retroilluminato, batterie ricaricabili incluse e funziona come mouse con connessione USB. Naturalmente c'è l'iPhone, c'è l'iPod, Ci sono vari oggetti di uso comune, un finto CD che si apre, dentro ci può essere la sostanza, una pallina da golf che si apre, vari attrezzi che in realtà sembrano normali oggetti, in realtà sono dei bilancini. Ora, il bilancino a cosa serve? L'hard disk è truccato, forse per far andare a aumentare le prestazioni del proprio computer bisogna metterci dentro la cocaina. A cosa serve un bilancino legato a un contenitore per cocaina venduto per corrispondenza, se non per facilitare il mercato? Lei cosa ne pensa, dottor Serpelloni? Ma guardi, è agghiacciante questa cosa che sta facendo. Io spero di non aver fatto, che non abbiamo fatto troppa pubblicità a quel sito. No, però se qualcuno non ne parla, continua a esistere. Assolutamente, ma noi l'abbiamo io già. Io faccio il mio mestiere. No, perfetto. L'apprezzo, la questione è... Spero che da oggi qualcuno se ne accorga, se non se ne era... Io ne ho scritto sulla stampa da qualche giorno, non c'è stato nessun riscontro. No, guardi, spero che oggi alla radio qualcuno se ne accorga. Le posso dare una conferma che questi siti sono sotto il sistema d'allerta osservazione e abbiamo tutta una serie di siti che tendenzialmente ne facciamo chiudere parecchie alla settimana. Il problema è che sono camuffati in un modo che poi legalmente, tra l'altro, hanno delle difficoltà. Sì, questo è all'estero comunque, vi avverto, poco potrete fare alla fine. Ma quello che mi interessava, non tanto che alla fine so che non si bloccherà l'uso della vendita del bilancino nascosto nel cellulare, ma è l'idea della normalizzazione del mercato. Se qualche cinese da qualche parte costruisce il finto cellulare e lo vende in Italia, vuol dire che in Italia ci sono molte persone disposte a spendere pochi soldi, 40 euro, poi manco tanto pochi, per comprarsi il bilancino portatile. Dobbiamo intervenire con decisione su queste cose qui, perché non ci possono essere mezze misure. Poi questo sito mi pare che abbia come... denominazione, usa il nome marijuana, sì, se non sbaglio, certo, no? Sì. Ecco, tenga conto quindi anche di questa cosa qua, perché i siti che usano cannabis, marijuana come nome di entrata per attrattivi sono quelli più frequentati, poi delle persone che cercano sostanze, no? E poi all'interno però ormai è chiaro che offrono qualsiasi tipo di sostanza, qualsiasi tipo di attrezzatura, soprattutto cocaina, ma anche eroina e altre cose. Allora anche questo deve far riflettere, nel senso che noi abbiamo visto che non solo, ma abbiamo anche delle prove relativamente a delle cose che sono state intercettate e comprese, diciamo così, all'interno delle organizzazioni criminali, che è proprio la marijuana, sono proprio l'hashish, sono queste droghe che vengono considerate erroneamente leggere o non pericolose, che vengono utilizzate dalle organizzazioni criminali per veicolare le altre grosse droghe. Io ho sempre detto, guardate che chi semina marijuana raccoglie eroina e cocaina. In termini è chiaro che in questo sito non viene mai nominata la parola cocaina, si vendono i pippotti con l'apposita pallina salvanaso, stanno molto attenti, si vende il bilancino, si vende tutto, poi non c'è mai scritto per mettere cocaina, però da accessori da sniffo, da fiuto, il pippotto, l'aspirapolvere, esatto, il bilancino, la valigetta con la lametta e lo specchietto, però non è che dicono tu ci puoi magari comprare il borotalco e fartici il dopo doccia, non lo so cosa pensano. Ma sono d'accordo, la normalizzazione probabilmente è inattaccabile da un punto di vista legale, però io registro che esiste questa cosa, ecco. Però credo che possiamo rendergli la vita dura anche su questi online, poi bisogna vedere dove sono posizionati, perché spesso sono posizionati in siti esterni all'Italia, no? Sì, questo è fuori il server sicuramente. Esatto, e poi anche il problema è che questi pagano con carte di credito, per cui si appoggiano ad ulteriori server, eccetera. C'è tutta una organizzazione estremamente su cui noi siamo comunque abbastanza attenti, ripeto, anche con la collaborazione con il NAS e con la DCSA, la Direzione dei Servizi Centrali Antidroga, riusciamo in qualche maniera a tracciare, a seguire almeno quelli più eclatanti. Questa però è una cosa che spaventa, soprattutto il fatto che l'accesso a internet ce l'abbiano gli adolescenti, ce l'abbiano i minorenni, ce l'abbiano i ragazzini, e queste pubblicità non possono essere tollerate, devono assolutamente trovare prima di tutto un controllo da parte dei genitori. Sì, perché io immagino che sia fighetto, quando uno vede che c'è il pippotto in 15 colori, carino, viene voglia quasi di comprarlo per fare i fighetti, quando c'è il bilancino nascosto dentro una pallina, dentro un mouse. Sono stimolanti. E uno dice, guarda, me lo compro per far figo con gli amici. Abbiamo parlato in un'altra trasmissione di ragazzine a scuola, testimonianza di una madre, che la figlia ha raccontato, sai, le mie compagne per fare le fighette a scuola fingono di sniffare l'occhi che è un cachet, qualcosa contro il mal di testa. Una volta addirittura a una è venuta un'emorragia al naso, per fare le grandi sniffatrici sul banco di scuola sniffavano l'occhi e una è venuta un'emorragia al naso. Ci fermiamo un istante, Francesco, buongiorno. Buongiorno a lei. Sì. Sì, dunque mi riaggancio proprio alla vostra conversazione. Sono un avvocato penalista di Roma e mi occupo anche e soprattutto di minorenni. Questi siti che pubblicizzano appunto partono esattamente proprio con la marijuana. Bisogna anche discutere del fatto della marijuana. La marijuana che viene pubblicizzata, i semi che vengono venduti a quanto pare in qualche modo legalmente, sono di un tipo assolutamente pompato con un principio attivo che è oltre il 20%, 20-25%. Che cosa significa? Significa che questi ragazzi acquistano e cedono anche per pochi grammi di marijuana una sostanza che in effetti viene considerata come se potenzialmente per tantissime dosi, e lo stesso vale per la cocaina che viene tagliata ormai con sostanze sempre più additivizzanti. Questo cosa significa? Significa quello che viene considerato un uso normale, un costume normale, in realtà comporta il fatto che queste persone vengono, soprattutto minorenni, spesso fermati e spesso indagati. Allora, avvocato, siccome devo dare la linea, io vorrei tenerla però ancora un istante, perché io cercando in internet il nome di Matteo Filla, che è il titolare di questo sito marijuana.it, leggo scarcerato Matteo Filla, è un pezzo del agosto 2010, gestore di marijuana.it, vendere semi non è reato. Il tribunale del riesame di Trento lo ha scarcerato, questo milanese, 37 anni, gestore di questo sito, che ha ricordato che secondo la sentenza della Cassazione non è illecito commissione di vendita di semi materiale che spieghi la coltivazione con strumenti per la coltivazione stessa della marijuana. Melog, la realtà condivisa. È l'Italia uno dei paesi europei in cui si consuma più cocaina. Siamo in grado di calcolare il quantitativo di cocaina utilizzato dalla popolazione milanese quando analizziamo le acque del depuratore di Milano Nosedo. Consumo che è circa di un chilo al giorno, che sabato e domenica diventa un chilo e mezzo. Sul mercato statunitense avrebbero potuto fruttare oltre $1 miliardi le 8 tonnellate di cocaina sequestrate a Panama dalle autorità locali. Parliamo oggi di cocaina, quando probabilmente non è proprio la notizia che sta in prima fila rispetto alla scaletta che fanno tutti i giornali, perché oggi c'è Tira dritto, stoppa la cocaina, Talk Street, che è un'iniziativa che porterà in 15 città italiane da oggi pomeriggio persone a parlare nei luoghi in cui si spaccia cocaina, che tutti conoscono, tanto che andranno lì magistrati, rappresentanti delle istituzioni, cantanti, uomini di spettacolo, giornalisti, per parlare laddove ormai non se ne parla più perché è sotto l'occhio di tutti. Abbiamo questa mattina anche fatto ascoltare un sito dei tanti, poi abbiamo visto che in realtà il titolare è stato più volte assolto perché non c'è reato nel vendere semi di marijuana, ma qua si vendevano anche accessori per sniffare, per vendere, per spacciare, per tagliare, senza mai dire che per cocaina, ma in realtà era il perfetto kit dell'utente di cocaina. Abbiamo alcune persone al telefono, velocemente. Enrico. Buongiorno. Sì. Sì, facendo in premessa, io non sono d'accordo con la vendita di quegli oggetti, però negli anni 70, negli anni 80, io lavoravo in gioielleria e si vendeva oggetti, tra l'altro, di grandi firme della gioielleria, si vendevano delle cannucce in oro per sniffare la cocaina. Ma come venivano spacciate? Dicevano cannucce da clistere, come le vendevate per non far capire? No, erano esposte esposte in vetrina ma qual era il nome dell'articolo? Quando lei l'acquistava dal catalogo c'era scritto Pippotto per cocaina Cartier, non so. Sì, c'era lo sgassino per esempio per lo champagne, che lo sgassino per togliere le bollicine dello champagne, e a fianco in questo astuccino c'era una cannuccia di 7-8 centimetri con una pallina all'apice, il salvanarice, per il salvanarice, e si stavano a 150-200 mila lire all'epoca. E andavano? Grandi firme anche, che ora non voglio fare nulla, però anche Cartier le ha fatte Pomellato. Le parlo degli anni 77, 79. Quindi 82. È sempre esistito, noi siamo dei parvenu, degli ingenui, pensare che oggi ci meravigliamo che li vendano a pochi euro in alluminio anodizzato in internet. Se lo fa... sempre esistito, visto che poi l'oro non dà infezione, perché come metallo nobile e molte persone ce l'avevano, allora, insomma, io no, per esempio, però insomma, ecco. Sì, però allora, sa, in quegli anni la cocaina ancora era qualcosa da ricchi, esclusiva. Oggi tutti sniffano, quindi con 5 euro c'ha il pippotto d'alluminio, anche a forma d'aspirapolvere, se vuole fare lo spiritoso. Fabrizio. Buongiorno Fabrizio. Sì. Senta, io ho un figlio di 16 anni che è stato fermato in motorino e gli hanno fatto il tampone ed è risultato positivo a delle sostanze. Mm. Dopo è stato perquisito, gli hanno trovato delle sostanze e ora si è innescato un processo per il quale abbiamo dovuto prendere un avvocato e in quanto il ragazzo è minorenne sono io il responsabile, no? Mm. Bene, allora, sicuramente mio figlio era in possesso di sostanze che non sono legali, certo. Ok? Bene. Non essendo legali, io vorrei sapere di chi è la responsabilità del fatto che mio figlio sia messo nella condizione di poterle trovare, perché se in questo stato queste sostanze non sono legali, sono proibite, quindi non ci dovrebbero essere, chi tutela me che mio figlio le possa trovare? Sì, sì, non a caso oggi vanno nei posti di spaccio, sapendo si spaccia. Se oggi una persona viene presa a spacciare, è chiaro che scatta la macchina della legge nei suoi confronti. Se nel momento in cui viene preso in fragranza è un po' più difficile. Sentiamo Francesco, però abbiamo un avvocato esperto in queste cose. Se mi dà anche una risposta rispetto al traffico. Io una volta un collega della stampa, un paio di mesi fa, si fece un giro in rete, addirittura comprò tutte le sostanze possibili, dalle LSD alle anfetamine, alla cocaina. Arrivavano in buste liofilizzate, in buste sottovuoto. In realtà si compra tutto in rete. Assolutamente sì. Assolutamente sì, le devo dire che io mi sono dovuto fare una cultura proprio dai miei clienti adolescenti, coetanei del figlio del signore che è intervenuto prima, i quali mi hanno indicato dei siti, per esempio olandesi, dove appunto vengono pubblicizzati questi famosi semi di marijuana, gli viene indicato e esaltato il fatto che sono 20-30 volte più potenti della marijuana, così come presente in natura. Non vorrei fare tanta confusione, oggi siamo concentrati sulla cocaina, se no facciamo di ogni erba un fascio. No, perché mi rilasciavo alla lettura della sentenza che aveva fatto prima e del fatto che il signore è stato più volte processato, ma è sempre stato risultato innocente. Sì, il problema è questo, si vende di tutto. Deduco che non sia reato quello che fa lui, assolutamente. Il vendere semi, ahimè, non è reato. Il coltivarli e cederli a qualsiasi titolo corrisponde all'articolo 73 del DPR. Quindi io posso dire, ti vendo i semi, però devo dirti anche che non li puoi coltivare perché è reato coltivarli. Assolutamente dovrebbe questo è l'escamotage. Dovrebbe essere così, ma di fatto c'è questa subcultura, soprattutto tra gli adolescenti, per cui poiché io lo posso comprare liberamente e poiché viene appunto magari da queste nazioni nord europee così belle pubblicizzate per certe cose, io me lo coltivo a casa. Questi ragazzi costruiscono dentro gli armadi delle vere e proprie culture idroponiche e poi cedono agli amici più o meno a titolo gratuito queste sostanze. Mi viene a dire che le madri, quando gli mettono a posto i calzini nei cassetti, le vedranno, probabilmente faranno l'occhiolino, diranno dammene un po' anche a me. Anna Canepa, buongiorno. Buongiorno a voi. Sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia. Noi abbiamo affrontato il problema in maniera capillare dal basso, dalla cultura diffusa e in fondo tendente alla sdrammatizzazione di vendita di pippotti, di valigette self-service per poter sniffare, di bilancine nascoste nei cellulari. Sembra quasi normale, sembra quasi che nessuno possa far nulla. Però risalendo, questo a cosa porta? Ma questo porta a uno dei settori, anzi al settore più redditizio della criminalità organizzata, sia semplice che di stampo mafioso, quindi porta a un traffico assolutamente rilevante che coinvolge di fatto il mondo intero. Sentivo prima che l'Italia svetta per consumo, ma è la stessa Europa che ha visto aumentare decisamente i consumi di cocaina, perché è l'Europa stessa che viene invasa da questa sostanza stupefacente. Addirittura, per parlare di dati, il mercato europeo ha visto raddoppiare negli ultimi 10 anni i propri consumatori, da 2 milioni nel 98 a più di 4 milioni nel 2008. Questo ci dà l'idea della capacità di penetrazione da un da un lato, e dall'altro lato degli enormi e immensi guadagni che la criminalità organizzata trae da questo traffico. Ecco, lei al di là dei dati, come vede, dottoressa Canepa, questa sorta di graduale ma irreversibile normalizzazione del problema? Noi sto parlando di un problema, ne parliamo da tanti anni, ne parliamo sempre, portiamo i dati, spieghiamo sempre che dietro il pippotto carino comprato con la bandierina rasta sopra stampata, in realtà c'è un traffico grossissimo e si alimenta una catena enorme di malaffare, ma nessuno gliene importa perché alla fine fa parte del costume, fa parte del quotidiano. Se ragazzini coltivano i semi di marijuana nell'armadietto di casa, i genitori non possono non saperlo. Questo rientra nel discorso della consapevolezza e dell'educazione. Io vado spessissimo nelle scuole ad illustrare che cosa c'è dietro al seme o che cosa c'è dietro alla bustina una serata di euforia, e questo è estremamente importante, perché poi quando davvero si fa comprendere che cosa c'è dietro, il fenomeno da qualche cosa di, appunto, come diceva lei, tipicamente di costume, diventa invece un fenomeno per quello che riguarda poi di fatto il nostro lavoro di criminalità. Melog, la realtà condivisa. 800240024. Qualcuno mi accusa, stai allarmando, dando notizie. Adesso chi non lo sapeva lo sa. E altri mi dicono, esistono dei sistemi informatici per tagliare fuori questi siti dalla navigazione dei ragazzi. Non ci illudiamo, non è con le cyber nanny che si possa in qualche maniera evitare che i nostri ragazzi, che a età minime già conoscono ogni malizia, ogni segreto della navigazione. La cultura deve nascere, crescere e allineare al di fuori della rete. Quando sono già in rete, ormai, se non hanno gli strumenti necessari, vanno ovunque. Giovanni Serpelloni, ricordo, capo dipartimento politica antidroga della Presidenza del Consiglio. Ma presidiare il territorio, quale senso può avere o come può essere integrato, visto che ormai la vendita è extraterritoriale nei luoghi non più concreti della rete? Il presidio del territorio viene fatto e deve essere fatto localmente, territorialmente, ma poi il territorio ormai si è esteso, anche la rete va presidiata ed è quello che stiamo facendo, tra l'altro. Io però, se vi posso dare due notizie interessanti, la prima è relativa ai semi, perché sentivo la discussione prima, no? L'attuale normativa considera il seme non sostanza stupefacente, quindi uno se vende semi o se compra semi non può essere chiaramente... Come i semi di zucca, la stessa cosa. Più o meno la stessa cosa, però attenzione, nel momento in cui c'è una normativa europea che noi dovremmo acquisire, no, che stabilisce che i semi, soprattutto quelli di canapa, devono essere certificati, cioè vuol dire che se tu compri o vendi semi non certificati, non è un reato penale, ma sei sanzionabile da un punto di vista amministrativo con delle ammende che arrivano anche a 1000 euro. Quindi, la certificazione, per non vedere, sono quei semi pompati, ecco questa no, cosa. La certificazione è una certificazione che rilascia l'Unione Europea su tutte le sementi, fa parte di una legge sementiera molto complessa che riguarda anche il Gran Turco, non solo i semi di canapa, no? Ora, chi vende queste sementi per scopi di coltivazione fraudolenta, no, vende delle sementi che non sono certificate, quindi nel prossimo futuro potremmo sanzionare queste persone, chi ha questi semi o chi li vende, con delle multe, diciamo, ecco, che sono comunque dei disincentivi. Poi la coltivazione, va anche chiarito che la coltivazione è un reato penale. Quindi ci sono state molta confusione su questa cosa qua. Chi si pianta le piantine nell'armadio, come si discuteva prima, no? Commette un reato che può essere sanzionato in maniera pesante. Quindi bisogna sviluppare una consapevolezza. Dico anche un'altra cosa rispetto all'intervento del genitore che diceva: ma chi mi protegge e chi è che doveva proteggermi dal fatto che mio figlio non trovasse questa sostanza sul territorio, no? Io credo però che tutti i genitori, io poi sono genitore figlio, con quattro figli a carico, quindi lo so bene, la prima cosa che devono fare è un'assunzione di propria responsabilità, perché attraverso un percorso educativo che comincia all'età di 3 anni, non a 15 anni, quando ti ritirano la patente perché tuo figlio magari ha usato sostanze, no, ma molto prima, tu hai dato un'educazione a tuo figlio che ha compreso che certe cose, certe sostanze, certi stili di vita non sono assolutamente da tenere, senza voler colpevolizzare nessuno, ma neanche che ci sia uno scarico di responsabilità sull'esterno da parte di genitori che magari dicono... se mio figlio la trova, non è colpa mia, ecco. No, ma si trova di tutto, perché allora sul territorio troviamo qualsiasi cosa. Sì, no, sì, ma anche un bazooka, se voglio, posso trovare. Non è che ci posso andare in giro. Esatto, il comportamento è la consapevolezza ed è la responsabilità dell'individuo, come dicevo prima, che deve essere consapevole che se va a comprare anche un euro di qualsiasi sostanza lo dà alla mafia, quindi sono cose che non si devono fare. Ecco, Anna Canepa, sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia, è esatto dire che oggi non si può più parlare di droga in generale, ma bisogna fare un discorso specifico per ogni tipo di sostanza? Ma non è solo da oggi, soprattutto dal punto di vista della repressione, sì, noi abbiamo avuto sempre a che fare con le diverse tipologie di droga, dal nostro punto di vista, quello della Direzione Nazionale Antimafia, che ha una visione allargata su quelli che sono i traffici nazionali e anche con proiezioni internazionali, chiaramente abbiamo un punto di vista che riesce a distinguere chi si occupa di cosa, chi traffica che cosa. Ecco, secondo lei aiuterebbe in generale a attenuare i danni del fenomeno una liberalizzazione delle droghe leggere, dei semi di canapa, di queste cose qua? Questa è una domanda molto poco giuridica, sì, però sì, sicuramente. Però chiedo a una persona che conosce, non ho nessun preconcetto. Infatti, ma guardi, uno dei grossi temi è quello che una forte repressione del piccolo traffico di sostanze stupefacenti va ad aumentare la popolazione carceraria, che è estremamente marginale e molto spesso distoglie invece dall'occuparsi dei grandi criminali che ci sono dietro, ecco, quindi sicuramente fa parte di una politica che deve essere meditata nel senso anche che mettere sullo stesso piano in realtà la canapa rispetto alla cocaina sono piani totalmente diversi, assolutamente diversi. Allora, sentiamo un attimo, proprio in conclusione, Paolo Berizzi. Paolo Berizzi, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per l'invito, anche a nome di tutti coloro che stanno collaborando al progetto Chiesa Dritto Stop Cocaina. Ecco, ricordo che è l'inviato di Repubblica, ma hai già parlato alla nostra missione che ha promosso questa iniziativa del Talk Street. Hai scritto La Bamba, dalla foglia al naso del mondo, viaggio sulla via della coca e nelle vite dei suoi schiavi, da Lai Editore. Mi spieghi bene come è tenuta questa idea, perché io trovo che sia interessante il testo di sfida che c'è dentro. Se in tutta Italia ci sono i posti preposti allo spaccio della cocaina che tutti conoscono, noi andiamo a parlare in quei posti, come accendere un riflettore in un luogo in cui avviene questa cosa. È esattamente così, Gianluca, noi andremo a fare una cosa molto semplice ma che non è ancora stata fatta in Italia, cioè andremo ad occupare che onestamente oggi ti calcola poca gente, tutti sono presi, cosa si diranno Bersani e Grillo, però noi ne parliamo comunque. Ma insomma, io mi auguro che ci sia attenzione anche su questo tema, che peraltro in campagna elettorale è regolarmente un grande assente, no? Nessuno mai parla, ma figurati, o comunque certo, molto poco di tossicodipendenza e di tutto quello che ruota intorno a queste sostanze, cocaina in primo piano, essendo la regina delle droghe. No, faremo una cosa molto semplice, andremo ad occupare fisicamente e simbolicamente i fortini dello spaccio di cocaina. Me ne dici qualcuno? Assolutamente, noi partiamo oggi da Tor Bella Monaca alle 3, quindi con il professor Serpelloni e la dottoressa Canepa ci incontreremo tra poche ore. Partiamo da Tor Bella Monaca, fortino dello spaccio, continueremo il mese prossimo a Scampia, a Napoli, e poi via via Palermo, Lozen, Bari, Iapigia, saliremo, faremo Perugia, Firenze. Perugia che ormai praticamente è tutto uno spaccio praticamente. Mi dispiace, la mia città d'origine, ma è questo. Purtroppo ne gira molta, ne costa sempre meno. Sì, ma non vado più per questo, mi dispiace andare in piazza. Piazza davanti alla fontana e vedere spiaccio a cielo aperto e tutti fanno finta di nulla. Ecco, noi cerchiamo di non far finta di nulla, anzi andremo proprio in quei luoghi, in quei mercati a cielo aperto per parlare di cocaina e soprattutto per ascoltare quello che la gente che vive in quei fortini, cioè con lo spacciatore sullo zerbino di casa, fuori dall'uscio, ha da raccontarci. Credo sia importante accendere i riflettori, come dicevi tu prima, far capire a queste persone che non sono sole, andare noi da loro a raccontargli i danni della cocaina, tutto quello che ruota intorno a questa filiera industriale e ascoltare soprattutto la loro esperienza. Questo sarà quello che cercheremo di fare. E lo faremo in modo itinerante, come dicevi prima, con dei dibattiti di strada, sulla strada. Avremo con noi amministratori, anche personaggi dello spettacolo che sono sempre quelli sotto l'occhio più di tutti, perché ce ne sono moltissimi che ci stanno dando e continuano a darci la loro adesione. Vi do anch'io una notizia: tra i tanti artisti, tra i tanti personaggi che sostengono Tira Dritto Stop Cocaina, c'è appena arrivata l'adesione di Roberto Bolle, uno degli artisti italiani più famosi al mondo e soprattutto dall'immagine più specchiata. Quindi che naturalmente è impossibile che faccia uso di sostanze, perché per l'attività che fa non lo permetterebbe. Grazie a tutti gli ospiti, buona fortuna e auguri per questa iniziativa.